Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nessun altro oggetto come la bicicletta simboleggia i nuovi stili di vita e di consumo. La ciclabilità delle nostre città è una delle sfide più importanti per la mobilità del futuro. Ecco perché questa sera apriamo la puntata con la Bike Challenge 2016, la competizione che premia le aziende che vanno al lavoro in bicicletta. Anche il bene va fatto bene. Nasce a Milano la prima università del volontariato. E poi dai testimonial ai nuovi prodotti e servizi, il mondo dei consumi guarda sempre di più ai senior. Oggi vi raccontiamo tutte le ultime tendenze. Grey is the new black. Secondo me ci siamo persi. Non ci siamo persi. Ogni pista è segnalata da un sottumulo di pietre. E questa è la nostra pista. Certo, se avevo ancora il mio orologio. Ancora, Paolo. Se avevi ancora il tuo orologio, noi non avevamo le nostre biciclette, quindi. E quindi, se io non conoscevo voi, avevo ancora la mia macchina. E non stavo qua. Ma vi rendete conto dove siamo, ragazzi, noi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente persi. Non ci siamo persi. Sicuramente persi, cercando un posto che non sappiamo neanche che posto è. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Le nostre città non sono il deserto, ma la difficoltà nel trovare le piste ciclabili è la stessa. Un tema, quello della mobilità su due ruote, che rappresenta una delle sfide più grandi per le città del futuro, soprattutto considerando il fatto che sul pianeta gli abitanti dei centri urbani crescono al ritmo di 60 milioni l'anno. Oggi sono il 54% della popolazione, nel 2050 saranno, pensate, il 66%. Siamo la prima generazione ad alta identità urbana, dice l'antropologo contemporaneo Marco Gé, che parla di Ville Planète, di una città mondo, e aggiunge: l'idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia. Ecco perché ci piace la sfida lanciata da FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che con la Bike Challenge 2016 stimola aziende, dipendenti e collaboratori a scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, in particolare quelli casa-lavoro. Sono già centinaia le aziende iscritte in tutta Italia, ma c'è tempo fino al 25 ottobre. Vince l'organizzazione che mette in sella la percentuale più alta dei propri lavoratori. Ci spiega come Giulietta Pagliaccio, presidente di FIAB. Non si tratta di fare tanti chilometri, ma di usare spesso la bicicletta per andare al lavoro, e quindi è una cosa praticamente accessibile a tutti. Ci si iscrive semplicemente collegandosi a un sito, lovetoride.net, e poi lì ci sono le modalità per poter iscrivere l'azienda e poi iscriversi personalmente. In questo momento la sfida è su tre città importanti come Milano, Roma, Torino, ma da tutta Italia ci si può iscrivere in ogni caso a titolo personale. Quindi per le aziende non conta quanti chilometri si saranno totalizzati, ma quante persone tra i dipendenti avranno pedalato, è così? Esatto, esattamente. E questa è un po' la novità, perché non ci serve sapere che uno è capace di fare, non so, 30-50 chilometri solo per andare al lavoro al mattino, e ce ne sono, ma anche la semplice persona che abita, che so, un chilometro dal luogo di lavoro può prendere la bicicletta, e se la prende tutti i giorni vale di più di quello che magari ne fa 50 di chilometri in un solo giorno. Come diventa bike friendly un'azienda? Con quali strategie? Beh, innanzitutto c'è una cosa semplice, quella di dare la possibilità a chi arriva in bicicletta di poter mettere la bicicletta in un luogo sicuro. Questo perché fa molto la differenza sia nelle aziende come nella città. Poi ovviamente le aziende possono offrire condizioni diverse di comfort. C'è chi ad esempio permette di utilizzare 10-15 minuti per potersi cambiare. C'è chi mette a disposizione delle docce o degli spazi adeguati anche per lavarsi e via di questo passo, fino ad arrivare a degli incentivi. Cito una su tutte, la Thermal Ceramic, che è un'azienda di Casal Pusterlengo in provincia di Lodi, che dà un incentivo di 0,15 centesimi, mi sembra, a chilometro, per i propri dipendenti che utilizzano la bici per andare al lavoro. In che misura la ciclabilità è una delle scommesse per la mobilità del futuro? La mobilità nelle nostre città, specie le grandi città, è diventata insostenibile ed è un'immobilità quella delle persone spesso, perché ormai le strade sono piene di auto e quindi c'è una difficoltà oggettiva anche a recarsi al posto di lavoro. Occorrerebbe togliere auto dalle strade. Per togliere auto dalle strade occorre dare mezzi di trasporto diverso, perché le persone devono potersi muovere. Il trasporto collettivo, che ha ovviamente un peso importante, ha però anche dei costi molto importanti e peraltro non può essere, come dire, puntuale. Non posso passare sotto casa mia, ma magari devo raggiungere la fermata a 300, 400, 500 metri. Ecco, in questo pezzo di strada tra casa mia e il mezzo di trasporto, nell'arco di 3-5 chilometri, la bicicletta sicuramente è il mezzo più efficiente e dunque è anche il più pratico e il meno caro in assoluto. Quindi fare interventi per la ciclabilità significa venire incontro alle esigenze di cittadini che si devono spostare e nello stesso tempo risparmiare enormi risorse per le casse pubbliche. I ragazzi hanno finito il legno, c'erano quegli scarti. Scarti? Noi facciamo tutto con gli scarti. Questa è una cooperativa di scarti. Seconda stella destra, questo è il cammino. Anche il bene va fatto bene, questo è il motto della prima Università del Volontariato, che nasce a Milano per iniziativa di CSV, Centro Servizi per il Volontariato, perché anche l'impegno sociale oggi richiede formazione, ci ha detto Glenda Pagnoncelli, la coordinatrice dell'università. La richiesta è nata dal fatto che moltissime persone si stanno avvicinando al mondo del volontariato e moltissime altre persone stanno decidendo di cambiare percorsi professionali per avvicinarsi al mondo del terzo settore. Quindi è aumentata tantissimo la domanda di persone che vogliono fare volontariato, vogliono fare azione solidale, ma in modo competente. Quindi noi abbiamo creato un percorso appositamente studiato per le persone che vogliono arrivare preparate in questo ambiente. Perché il mondo del terzo settore sta attraversando una grande trasformazione. Profit e non profit non sono più su due barriere opposte come erano una volta. Ci sono modelli virtuosi di collaborazione che riescono a coniugare queste due realtà. Concordo pienamente con te, ci si è resi conto dell'importanza e del valore economico che le attività solidali hanno nel nostro paese. Ci si è resi conto di quanto è importante che ci siano centinaia di associazioni che si occupano di attività solidali, di persone che non stanno bene, della sostenibilità nel nostro paese, e quindi sempre più persone si stanno avvicinando a questo mondo per dare il loro contributo. Noi abbiamo tantissime richieste di persone che, per esempio, arrivano dal mondo profit e hanno invece un desiderio di accostarsi al no profit, di aprire delle proprie associazioni o di dare del contributo in associazioni già esistenti per sperimentare un altro pezzo di professionalità. Giustamente anche in questo settore le persone vogliono fare bene il bene. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, ricominceremo mantenendo una promessa, meglio un annuncio di qualche settimana fa, e poi parleremo di consumi e senior, dai testimonial ai prodotti dedicati quando gli over 65 fanno tendenza. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... essere e avere. Ricordate l'economia 0.0, la provocazione, le riflessioni che abbiamo raccolto e vi abbiamo proposto qualche tempo fa, ora sono condensate in un libro. Ve lo avevamo anticipato, si intitola Il tempo dei nuovi eroi, l'autore è Oscar Di Montigny. Buonasera Oscar. Buonasera Maria Luisa, buonasera ascoltatori. Allora, il tuo è un libro che parla di marketing, comunicazione e innovazione, ma in modo diverso, e tra l'altro non parla solo di questo, poi ci arriviamo. Il titolo lo dimostra. Che cosa c'entrano gli eroi, quindi la mitologia con l'economia? Bellissima domanda. Ma gli eroi e la mitologia con l'economia c'entrano secondo me tantissimo. L'economia non è una disciplina dei nostri tempi, esiste da sempre. Gli eroi esistono da sempre, sono stati per lungo tempo figure mitologiche. In realtà ai nostri tempi, da qui anche il titolo Il tempo dei nuovi eroi, ho avuto la sensazione da qualche anno che si rendesse necessario prefigurarsi nuove immagini di eroi. L'economia è una delle tante discipline nelle quali l'essere umano da sempre con le quali si misura, dove l'indagine che l'essere umano da sempre fa è quella del giusto. Gli eroi sono da sempre persone giuste. Il tempo dei nuovi eroi prova a prefigurarsi chi possano essere le persone giuste in questo nuovo tempo, che è un'epoca di grandissimi cambiamenti. E quindi chi sono gli eroi dei nostri tempi? Potenzialmente ciascuno di noi, chiunque oggi nella sua quotidianità interpreti la propria vita da persona per bene, rincorrendo un risultato di benessere non solo per sé, ma anche per l'altro, da sé, gli altri, ma soprattutto al contempo, ed è la novità a mio parere, per la collettività. Quindi persone comuni abitate da grandissimi valori, guidate da grandissimi ideali. In questa tua visione dei consumi, dell'economia, un'economia 0.0 appunto perché è sostenibile, qual è il motore di questo cambiamento? Il motore di questo cambiamento è proprio la desinenza 0.0, è il ritorno a se stessi. In un mondo che va velocissimo verso il 2, 3, 4.0, oggi in Confindustria si parla di industria 4.0, io ogni tanto rifletto e dico bene la velocità, ma molto importante l'orientamento, la direzione. Io connetto il concetto di direzione e orientamento a questo 0.0, quindi tornare a se stessi, rimettere al centro l'essere umano, un'economia che non sia più scopo ma mezzo, e un essere umano che torni ad essere scopo e non essere più mezzo dell'economia. E io mi auguro che dal libro si possa trarre il concetto di semplicità come fulcro di tutto. Focus sui trend. Lo sapete che è il grigio, il colore forte nei consumi, sta ad indicare il protagonismo dei cosiddetti senior, le persone cioè con più di 65 anni. Nell'ultimo rapporto sui consumi COP si parla di pantere grigie. In Italia gli over 65 sono cresciuti del 17% negli ultimi 15 anni per un totale di circa 13 milioni e mezzo, e quasi 7 milioni di loro, pensate, hanno più di 75 anni. Sono anziani ma in buona salute e sempre più attivi, con una buona capacità di spesa. Ecco perché prodotti e servizi guardano a loro come ai nuovi trendsetter, in grado di influire e influenzare le tendenze del consumo. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, uno dei primi segnali di questo protagonismo crescente dei senior sono le campagne pubblicitarie con testimonial silver, diciamo così, in settori tra l'altro considerati fino ad oggi lontani, come la moda, le automobili e così. Sì, assolutamente. Nell'ultimo anno in particolare si sono visti diversi personaggi over 65 e anche ben di più. Penso per esempio a Iris Apfel, che compare nello spot pubblicitario per il lancio della nuova Citroen DS3, questa persona che è una famosa fashion designer americana, no? Che ha 94 anni, ma certamente il suo stile non è quello da nonna classica, perché basti pensare, è stata curatrice del design della Casa Bianca per più di 40 anni e ancora oggi è un'icona di stile. Un altro caso molto bello è per esempio quello della pubblicità che i grandi magazzini del lusso inglesi, Harvey Nichols, hanno fatto fatto sull'edizione britannica di Vogue per omaggiarla, perché era il suo centenario, e così nel numero di giugno nella rivista hanno fatto una pubblicità in cui come protagonista c'è Lady Marjorie Gilbert, cioè una signora anche lei centenaria, no? Che non è mai stata modella e che vive in una residenza per anziani a Birmingham. Vi consiglio di vedere il video del making of della pubblicità perché è meraviglioso, ecco. Più recentemente, posso segnalarvi Gucci per la sua campagna Gucci Cruise 2017, che ha, diciamo così, eletto a sua musa l'attrice, anche lei quasi ottantenne, Vanessa Redgrave, no? La si vede a suo agio in questo video molto originale, molto british, diciamo, in mezzo a modelli giovanissimi. E anche da noi in Italia, per l'ultima Milano Fashion Week, Bottega Veneta ha voluto Lauren Hutton sulla passerella, quindi una over settantenne che ha sfilato a braccetto di una modella ventunenne. Ultimo caso in questo senso che mi viene da segnalarvi è internazionale, è un cinese, Daeshun Wang, sul web lo chiamano The Hottest Grandpa, ha 80 anni, ha sfilato l'anno scorso per la prima volta, quindi ha 79 anni, e si racconta in un video, diciamo così, autopromozionale, e spiega a tutti che non è mai troppo tardi, no? E quindi il successo, anche quello che sembra più effimero come quello del web, in realtà ha alle spalle 60 anni di preparazione. Come sempre tutte le immagini video sulla nostra pagina Facebook. Isabella, dicevamo, categorie inaspettate o comunque riservate fino ad oggi ai giovani, la stessa cosa succede per prodotti e servizi. Possiamo parlare, non so, delle community, le community online. Di solito uno se le immagina per appunto persone più giovani, ma in realtà nascono e si sviluppano, hanno grande successo anche quelle per gli over 50. Free Bird Club, una specie di Airbnb tra i coetanei, che cosa fa? Non offre solo la casa in affitto, ma cura in particolare gli aspetti di relazione e di condivisione che possono nascere tra chi affitta la propria abitazione e chi va ospite. L'ha fondato un 45enne irlandese che ha avuto l'idea vedendo come fosse bravo il suo padre settantenne ad ospitare nella sua casa grande ma ormai vuota, no? Il fenomeno dell'empty nest, degli amici, no? Facendo proprio gli onori di casa e divertendosi anche a portarli in giro. Ecco, un'altra community, se vogliamo continuare con i paragoni, che può essere paragonata a Tinder, è Stitch. Non si tratta esattamente di un'app per appuntamenti, punto e basta, ma di uno strumento che permette proprio ai seniors di crearsi nuove relazioni anche di amicizia, quindi non so, cenare in compagnia, andare al cinema, teatro, oppure anche proprio per relazioni sentimentali. Quindi abbiamo visto sharing economy e dating in versione silver, anche i magazine, le riviste, mi anticipavi. Riviste online, per esempio in Italia un sito che non è solo per i senior ma per tutte le età, che si chiama Voglio Vivere Così, che è stato ideato da un italiano emigrato in Estonia, ha avuto così successo che da marzo di quest'anno si è trasformato in un magazine e ha proprio una sezione tutta dedicata ai pensionati italiani all'estero, perché ormai anche noi italiani, come i tedeschi e gli inglesi già da tempo, ci stiamo indirizzando verso questi buon ritiri all'estero. Altre riviste, mi viene in mente Great Hunters, che è nato come, diciamo così, un posto dove trovare informazioni per i curiosi del digitale, ma poi si è evoluto e arricchito fino a diventare una testata online con informazioni, eventi, iniziative che riguardano un sacco di temi diversi, e non solo salute e casa, ma anche viaggi, cultura, tecnologia. Un mercato che non si può trascurare, e così anche i prodotti e i servizi che non sono stati pensati per i senior pensano a una declinazione strategica per loro, o comunque tendono a non escluderli. C'è un servizio di Family Concierge che si chiama Envoy, inviato, che permette tramite una sottoscrizione mensile che costa meno di $20 di avere un servizio di portineria, ma il termine è riduttivo, no? Perché oltre alle consulenze telefoniche si può richiedere una persona che può dare un aiuto per le incombenze quotidiane di qualunque tipo. Quindi non è solo per i senior, ma sicuramente ai senior aiuta avere la possibilità di una persona che dà un aiuto nelle pulizie o per spostarsi, andare in farmacia o fare la spesa. In Italia c'è un servizio che è analogo, ma è più basic, cioè è limitato a un aspetto specifico, quello del fare la spesa, che anche lì sta avendo molto successo. Parlo di Supermercato 24, che permette di fare la spesa online, di ordinarla, ecco, presso il proprio supermercato preferito o anche più di uno, no? E poi di averla recapitata a casa da uno shopper, cioè non da un corriere, ma da una vera persona. Chiuderei, Isabella, con la tecnologia. Il mondo digitale guarda a loro in chiave di facilitatore. Sicuramente, se vogliamo guardare all'ambiente domestico, per esempio, l'Internet of Things potrà sicuramente aiutare a semplificare, come dicevi tu, molte cose. Un bel esempio può essere, per esempio, Noki, un accessorio che è in grado di trasformare qualunque superficie solida in un'interfaccia. Porte, pareti, tavoli diventano una sorta di telecomando per tutti quei dispositivi che si possono connettere con il Wi-Fi. Quindi pensiamo a chi fa fatica a muoversi, no? O non ci vede più tanto bene. Questo è un buon aiuto. E poi pensiamo, Isabella, a intere categorie di prodotto, le biciclette elettriche piuttosto che le calzature comfort, insomma tutto un mondo che si sta rideclinando e potenziando proprio sui senior. Grazie Isabella Guaitoli per essere stata con noi. Grazie a te Maria Luisa, arrivederci. Il consumautore. Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Questa sera torniamo su uno dei temi che ci stanno molto a cuore. È collegato a un'iniziativa che da un anno ormai stai portando avanti in tutta Italia. Che cos'è, Francesco? È il Festival della Crescita, seconda edizione milanese, dal 13 al 16 ottobre, e sarà quello il momento in cui lanceremo il manifesto per la crescita. In un anno di lavoro abbiamo individuato 9 punti, secondo noi, chiave, che proponiamo ai nostri ambasciatori della crescita, ma anche a tutti i partecipanti al festival, perché l'ultimo giorno vorremmo stilare questo documento da presentare alle istituzioni. Leggo dai vostri stimoli: alimentare connessioni inaspettate, stabilire le regole per un commercio onesto e poi incrociare le sapienze locali, ma sono tutti belli i punti e mi spiegavi tu assolutamente open, quindi aperti alla co-creazione, agli stimoli esterni. Sì, noi ci organizzeremo al Palazzo delle Stelline per poter raccogliere tutti gli stimoli, i commenti, e tra l'altro durante anche i vari dibattiti del festival affronteremo alcuni di questi punti, perché crediamo che oggi anche le associazioni e istituzioni abbiano bisogno di nuovi stimoli. Le storie, le eccellenze, le energie creative, culturali, imprenditoriali che hai messo insieme in queste tappe del festival, che cosa stanno raccontando? Stanno raccontando una possibilità che sembrava in Italia francamente non aperta, e cioè le discipline e anche le diverse visioni del mondo si possono incrociare virtuosamente se giocano fuori casa, cioè se non hanno nulla da difendere. Con dei punti di contatto, a proposito di connessioni, assolutamente inaspettati. Questa è la cosa più bella, davvero tutte le generazioni, dai più maturi fino ai bambini e ragazzini, che lasciano e danno un contributo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Gianmarco Ferronato e Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.